Incontri di Gianfranco Fabi. La nebbia che bella è so, la bagio per i pulmoni, e quando piocca le buona che il parco e i bastioni. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti si ascoltano, come avrete capito da questo brano tratto da Giovanni Danzi, La Sapurca e Mundo in Disa. Oggi parliamo di Milano e allora buongiorno, buona domenica e buon pomeriggio a Marco Garzonio. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie. Marco Garzonio, presidente della Fondazione Culturale Ambrosianeum, psicologo, psicoterapeuta, giornalista, editorialista del Corriere della Sera, presidente appunto della Fondazione Ambrosianeum, che ha pubblicato nei giorni scorsi e presentato il rapporto sulla città Milano 2012, rapporto numero 10-11. No, la ventesima edizione. La ventesima edizione, come è cambiata Milano da 20 anni fa ad oggi? In maniera straordinaria, perché 20 anni fa, proprio più o meno di questi tempi, era clamorosamente scoppiato lo scandalo, era scoppiato a Tangentopoli. Cioè improvvisamente, come la bella addormentata, Milano si era risvegliata e aveva capito che non aveva capito quello che stava accadendo. Che sì, certo, il grande movimento, il flusso di bustarelle e di tangenti, ma soprattutto non aveva capito che era completamente cambiata la realtà sotto. Ormai le grandi industrie incominciavano a delocalizzare, andare all'estero, i grandi gruppi chiudevano, pensiamo per tutti alla Falck, la società civile non aveva più quello status di ceto medio forte, oggi addirittura scomparso, ma allora era ancora il tessuto connettivo, e improvvisamente Milano si è svegliata giusto 20 anni fa in questa situazione. Ecco, come dice Giovanni Danzi, del bene o nel male Milano è un gran Milano, quindi nel bene o nel male sa ingegnerizzare tutto molto, molto bene, anche le cose negative. Quindi si è svegliata nel 92, 2012, si è risvegliata, ricerca di ritrovare una nuova identità molto diversa da quella di 20 anni fa. Sì, diversa per alcuni versi e tragicamente uguale per altri, perché ancora oggi siamo qua alle prese con un discorso di corruzione all'interno dell'amministrazione pubblica, andrà approvata, la magistratura sta indagando eccetera, però ci troviamo oggi con una regione che ha la bellezza di 11 consiglieri che sono indagati, abbiamo altre amministrazioni che non sono certo, tra l'altro non è questione di maggioranza o di opposizione, perché queste indagini riguardano l'intero comparto politico, abbiamo una situazione economica che è vero, come si dice, che è figlia di una grave crisi internazionale, ma che va a pescare all'interno di una grave crisi strutturale di questa città, di questa regione. Ecco, comunque c'è anche un lato positivo, la Lombardia è una regione comunque efficiente sotto il profilo dei servizi, sotto il profilo anche dei conti pubblici, è una regione dinamica sotto il profilo imprenditoriale che si è mossa, in cui la manifattura, la classica manifattura, sono chiuse le grandi imprese, però c'è un tessuto imprenditoriale di piccole e medie imprese che sta reggendo anche di fronte a questa crisi. È indubbio che c'è questa solidità di base sia a Milano sia nell'intera Lombardia, ma è altrettanto indubitabile che questa situazione rende difficile a questa regione, che pure è piena di eccellenze, di svolgere quella funzione di traino, di locomotore di tutto il resto del paese, di congiunzione con l'Europa, che è stata una delle sue caratteristiche, anche perché un grave rischio che oggi stiamo correndo è che con il crollo della Lega, a sua volta partito travolto dagli scandali, noi rischiamo di buttare via il bambino con l'acqua sporca, cioè di affossare il discorso delle autonomie, che invece è stato uno dei caposaldi della Lombardia addirittura degli ultimi 200 anni, non soltanto degli ultimi 20. Insomma. Ecco, facciamo un passo indietro, siamo andati forse avanti a galoppo proprio perché la logica politica è molto appassionante. Marco Garzonio, presidente della Fondazione Ambrosianeum, non dobbiamo pretendere che tutti sappiano che cos'è la Fondazione Ambrosianeum, riassumiamola in poche parole. In pochissime parole, è una fondazione culturale nata nel 1946, cioè proprio all'indomani della fine della guerra, quando personaggi illuminati come il cardinale Schuster, Enrico Falck, uno dei capitani di industria del primo e del secondo dopoguerra, Giuseppe Lazzati, si misero insieme perché ritenevano che oltre alla ricostruzione materiale di Milano e del paese, bisognasse puntare a una ricostruzione morale. E allora inventarono alcune iniziative, tra queste una fondazione culturale che servisse a portare avanti da una parte la tradizione dei cattolici democratici, che era quella evidentemente l'ispirazione di fondo di queste persone, ma nello stesso tempo il dialogo con la società civile, il dialogo con le istituzioni. Noi abbiamo lì le nostre radici. È un terreno su cui agire, che avrà sempre qualcosa da fare, perché quest'opera certamente non ha un obiettivo immediato, ma un obiettivo proprio di far costruire, di far crescere, di far maturare una coscienza collettiva, con alterne vicende, perché poi lo scenario resta sempre difficile. Allora, un rapporto annuale, e oltre al rapporto annuale, quali sono le iniziative della Fondazione? Noi facciamo una serie di iniziative per filoni, cioè da una parte abbiamo il filone politico-istituzionale, dove il politico è in senso molto lato, per cui abbiamo fatto grossi convegni e grossi incontri, per esempio uno sulla corruzione, abbiamo giorni e giorni portando industriali, operatori economici più modesti, magistrati, giuristi, cioè varie persone su un argomento come questo, proprio perché da una parte c'è l'affermazione ideale, cioè la difesa dei valori, della libera concorrenza, del mercato, eccetera, ma dall'altra parte anche fronteggiare una situazione reale, che è quella, quando ci sono grandi opere, vedi per tutte le Expo, la tentazione di infiltrazione della criminalità organizzata è una realtà. Altre grosse cose, una ricerca che è sfociata in un grosso convegno che tra l'altro ha avuto come coordinatore per una tavola rotonda il vostro direttore, su Pasquale Saraceno, che è stato in un'occasione dei 20 anni dalla morte di Saraceno, è stato un po' anche un bilancio dell'economia italiana, no? Un valtellinese, certo, che certo, è intervenuto per il sud, tanto per intendersi, a proposito di attualizzazione. Poi oltre a questo settore abbiamo un settore che noi chiamiamo biblico teologico, in cui cioè c'è l'educazione dei laici, la formazione dei laici, eccetera. Ce n'è un altro specificamente indirizzato alla città e alla mare, a Mare Milano, iniziative in cui portiamo per tutto l'anno persone, lo intitoliamo Camminare Milano, portiamo per tutto l'anno persone a visitare i luoghi più significativi. Ecco, per chi volesse saperne di più c'è un sito internet. Assolutamente. Ambrosianeum.org. Sì. Ah, non punto .mi come no, Milano. Punto .org. .org. Allora, torniamo un po' al rapporto, torniamo un po' alla realtà di Milano, un rapporto che si incentra sui cambiamenti demografici. Come mai? Ma soprattutto perché noi ci siamo ormai resi conto che, guardando le cifre, le statistiche, e da questo punto di vista l'edizione di quest'anno è molto documentata ancora una volta, questa è una città che invecchia e non è una novità. Però quello che, leggendo oltre le cifre narrano anche altre cose, cioè che questa Milano, oltre alle persone che invecchiano, si trova di fronte, è vero, a una riduzione della popolazione giovanile, perché per trovare la casa i giovani devono emigrare e devono andare nell'Inter o addirittura in altre province. Però nello stesso tempo ci troviamo di fronte a un grande aumento della popolazione giovanile straniera. E allora a questo punto ci sono una serie di problemi di carattere sociale che vanno visti, affrontati e risolti, non più come si è fatto purtroppo in anni anche recenti dal punto di vista ideologico, ma fatti, visti, affrontati dal punto di vista realistico. Ecco, la città non si rende forse ancora conto di questo cambiamento. Non se ne rende ancora conto appieno, tant'è vero che quando, per esempio, noi l'abbiamo affrontato nel presentare il rapporto l'altro giorno, quando per esempio viene lanciata la proposta del dare la cittadinanza ai bambini che nascono qui, perché sono a tutti gli effetti, allora a un certo punto Milano, per fortuna, ha passato quella sbronza, chiamiamolo così, il termine non è molto tecnico, ma per dire quell'ubriacatura, certo, per anti stranieri, e è tutto sommato più tollerante in questi ultimi mesi, però allo stesso tempo non capisce a fondo il problema, cioè il problema è che effettivamente la gente è toccata quando nel proprio asilo, nella propria scuola materna, nella propria elementare, nelle medie, incominciano ad arrivare i bambini di altre nazionalità, allora lì se ne rende conto, se no non se ne rende conto. Di questo rendersene conto, di cosa vuol dire rendersi conto di questo tema, parleremo nella seconda parte del nostro programma. Ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. Incontri di Gianfranco Fabi. El Carubi, la Via Brisa, el Caret di Chapacán. te vei sul monte Merlo, par de Vessa San Vincent, qua cusa le Monte Carlo, Sanremo e Mentù, in confronto l'Ulona al Tungù. A Parigi che la Sena il Danubi, alle blu, ma a Milan che il Navigli e per più. Eh sì, a Parigi c'è la Senna, il Naviglio, c'è la Senna, a Vienna c'è il Danubio, Milano ha il Naviglio. Parliamo di Milano con questa canzone di Giovanni Danzi, La Sapurca e il Mondo in Disa. Parliamo con Marco Garzonio, presidente della Fondazione Ambrosianeo. Nella prima parte del programma abbiamo parlato appunto del rapporto Milano 2012, il 20° rapporto della Fondazione, presentato nei giorni scorsi, un rapporto centrato sui cambiamenti, soprattutto sul cambiamento demografico che sta avvenendo con il calo della natalità, l'aumento delle persone anziane, con questa crescita anche dell'immigrazione che è il fattore di questi ultimi anni, un cambiamento profondo che di giorno in giorno ha cambiato veramente la città. Marco Garzonio, ecco, c'è stata questa presentazione del rapporto proprio nei giorni scorsi, hanno partecipato due nuovi protagonisti in fondo di Milano, il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, che è entrato in carica nell'autunno scorso, e il sindaco Pisapia, Giuliano Pisapia, da circa un anno sindaco di Milano. Sono un po' un segno anche questi del cambiamento della città. Assolutamente, il sindaco è il segno del cambiamento, ma al di là di quelle che possono essere valutazioni politiche personali, però di fatto rispetto a siamo partiti dalla 20 anni fa Tangentopoli, l'eco di Tangentopoli sono stati i 20 anni di centrodestra, prima con la Lega, poi con il sindaco Albertini e il sindaco Moratti, e adesso c'è stata questa novità, che è stata una novità non tanto politica in senso stretto dei partiti, perché in realtà i partiti di centrosinistra avevano votato un altro, volevano un altro. Le primarie sono finite come poi è accaduto successivamente, Milano sempre anticipatrice di fenomeni, per cui è venuto fuori Pisapia, che ce l'ha fatta grazie al cosiddetto popolo arancione, a questo incontro che solo a Milano poteva esserci, dalla vecchia borghesia capitanata da personaggi alla Bassetti, tanto per dire un nome noto a tutti, per arrivare a gente super moderata o a gente super progressista. Insomma, questa borghesia milanese era sempre stata un po', diciamo così, tacciata di essere salottiera di sinistra. Sì, però in questa occasione il famoso gruppo del 51% con Bassetti ha messo insieme non solo questa borghesia più di sinistra, ma insieme anche borghesia cosiddetta di destra, perché c'erano dentro anche persone che una volta andavano in giro per Milano come maggioranza silenziosa e fasciate nel tricolore, insomma, e che hanno votato per Pisapia. Certo. Quindi questo è una borghesia che peraltro con lo stesso Bassetti adesso difende Formigoni per la sua capacità amministrativa di efficienza, infatti, al di là degli aspetti appunto su cui dovrà appurare la magistratura. Però quindi un realismo, un pragmatismo di fondo, tutto ambrosiano, tutto assolutamente tutto ambrosiano. Dall'altra parte il cardinale Scola, che anche lui, se non proprio milanese in senso stretto, però certo è dell'area milanese perché viene da Lecco, ed è una novità intanto in quanto è una persona molto, molto famosa anche a livello internazionale, ma è molto vicino a Papa Ratzinger e in questo senso ha dei tratti distintivi rispetto a chi l'ha preceduto, però nello stesso tempo segna una continuità rispetto a Martini, rispetto a Tettamanzi, perché di entrambe porta dell'uno la dottrina. Martini era un biblista, e mentre lui un teologo, un dottrinale, insomma, e dell'altro, cioè di Tettamanzi, fa proprio alcuni punti tipici ambrosiani e meneghini, come il fondo famiglia lavoro, adesso che riprende con lui con una fondazione. Quindi queste su due sono le grosse novità di questo. Io ci aggiungerei una terza. La terza novità è pressoché quasi contemporanea, è la presidenza Monti, altro milanese, altro milanese, che di fatto rispetto al milanese precedente, perché anche Berlusconi è milanese, ma rispetto al milanese precedente rappresenta un'altra Milano, cioè la Milano più sobria, la Milano della Bocconi, la Milano riservata, la Milano dei professori eccetera, là era una Milano totalmente diversa. Ecco, queste sono tre grosse novità che Milano in qualche modo ha favorito. nella sua affermazione. Dall'altra parte, in qualche modo, ne è anche stupita, per cui adesso non sa bene che conti fare, come prendere esattamente tutte queste cose. E lo vediamo in alcuni appuntamenti, lo vediamo in fatti grossi, le incertezze sulle spoli, incertezze sulla città della salute, dove va a Sesto, che sarebbe un modo per recuperare un'antica area dismessa e quindi nello stesso tempo uscire dal circuito della cinta daziaria, o va dove la vuole invece Veronesi, cioè nel cuore della ricerca. Cioè ci sono tutta una serie di contraddizioni che però adesso almeno sono qua pronte a essere vissute. Ecco, sono discusse, c'è una città che discute, una città che partecipa. Sì, direi, che vuole... direi di più di prima, direi di più rispetto agli anni immediatamente precedenti. In questo momento c'è una maggior vivacità della città. Ecco, la stessa accoglienza che è stata data al nuovo arcivescovo, appunto senza per questo che sia stato un giudizio verso i predecessori che tutti ammiravano, però è stata un'accoglienza molto cordiale, molto aperta, certo, molto interessata anche in quei gli aspetti. Il cardinale Scola è stato uno degli interpreti anche di un dialogo molto aperto con le altre realtà, con le altre religioni. Lui viene spesso ricordato per questo termine meticciato che, certo, lui ha coniato come elemento distintivo della società attuale. Quindi è una Milano che si può aprire, che può costruire anche una nuova forma sociale. Non è un caso che sia stato proprio il cardinale Scola, mentre c'era una certa indifferenza generale, se non qualche diffidenza, a sostenere l'uscita di Pisapia, quando Pisapia ha detto bisogna riconoscere la cittadinanza ai bambini che nascono a Milano, cioè ha fatto da sponda per quello che in fondo è un diritto civile, insomma, no? Entra più nella cosa civile che non nella sensibilità culturale e religiosa di un arcivescovo, insomma. E quindi anche nel cogliere questi cambiamenti, abbiamo parlato, il rapporto parla molto di questo cambiamento demografico, di cogliere questi cambiamenti sotto il loro aspetto di opportunità, un'opportunità per far rinascere una solidarietà e una responsabilità. Mi pare che anche la parola responsabilità sia una di quelle parole trasversali per tutto il rapporto, un richiamo molto forte a questo fatto che non ci può essere una visione così distaccata, ma richiede da parte di tutti che ognuno si assuma la sua piccola parte di responsabilità. Sì, questo che ormai un concetto che si sta affermando, dalla crisi si esce tutti assieme o tutti assieme si precipita, insomma, perché aspettarsi che sia Roma, che sia l'intervento pubblico, che sia qualche cosa che viene da fuori, ormai abbiamo capito tutti che è impensabile. E da questo punto di vista, sempre a proposito di pragmatismo lombardo, che è una novità ma allo stesso tempo è una tradizione, chi in questo momento sta sperimentando e aiutando la sperimentazione? Una antica fondazione come la Fondazione Cariplo, la quale di fronte, l'ha detto esplicitamente il presidente Guzzetti, cioè a questo punto immaginarsi che a garantire il welfare in crisi, ormai che subisce tagli del 63%, che sia qualcun altro oltre al pubblico, è impensabile. È solo il pubblico che può farlo. Però allo stesso tempo il pubblico bisogna aiutarlo. E allora questa sperimentazione che sta facendo proprio per gli anziani, tra la formula ormai a tutti nota, la badante. Certo. Che la badante, che però vuol dire bene o male in nero o in chiaro, 1.500 euro al mese che una famiglia deve mettere lì, più le spese ordinarie. E invece il ricovero in strutture, l'idea di nuove forme di protezione, nello stesso di accoglienza, che avvicinano l'assistenza domiciliare, eccetera. Ecco, questo per esempio è una idea che, se darà frutto a Milano, potremo da Milano lanciare un messaggio a risolviamo i problemi del welfare non solo con l'impoverimento ma aguzzando l'ingegno e trovando forme nuove, insomma. Un esempio di sussidiarietà, in fondo, di partecipazione e anche di nuovi tipi di aggregazione, nuovi tipi anche di rapporti sociali che facciano forza su quello che è il patrimonio poi storico. La Fondazione Cariplo, così come le altre fondazioni di tipo bancario, sono in fondo, hanno le risorse create dalle generazioni passate che hanno fatto qualcosa, non hanno solo dissipato come sembra che faccia la generazione attuale. Esattamente, da questo punto di vista direi che la Cariplo è proprio l'esempio, non per niente poi la capofila di tutte le altre fondazioni bancarie che esistono in questo paese, insomma, no? Siamo a metà 2012, al 2015 mancano 2 anni e mezzo, come vede Marco Garzogno, l'ex posizione universale di Milano 2015. E con molti punti interrogativi, come lo, direi che come esperienza condivisa, insomma. Tutti sappiamo che sta per essere fatta, però allo stesso tempo facciamo molta fatica a vedere materialmente, in concreto, come possa venire realizzata. Insomma, è una sfida che... Oddio, anche qui c'è una vecchia modalità milanese, no? Che a me ne ha insegnato fin dai primordi nel giornale, che mi ha sempre detto, sì, ma non ti preoccupare, è come la Scala, che fino alla mattina del 7 dicembre non si sa se si va in scena, però la sera si va ugualmente in scena. Per cui credo che è un po' una, è così, un'arma a doppio taglio questa. Lo stesso valeva per la fiera campionaria quando c'era la vecchia fiera qui in centro. Quindi a questo punto, oggi, mancano 2 anni e mezzo, non vediamo. Però molto probabilmente riusciremo a trovare, non so in che dimensione, non so in che, con quali mezzi, non so con quali risultati, eccetera, però forse riusciremo a trovare il modo. Però per sembra farlo. Un po' un ambito in cui rischiamo di complicarci un po' le cose da soli. In questa... Ma lo facciamo ogni piè sospinto. Hanno uno sport quasi nazionale. Lo facciamo ogni piè sospinto, fra governo, regione, comune, e poi improvvisamente vengono fuori anche le questioni internazionali, vedi Dalai Lama e cittadinanza che dava fastidio alla Cina. Cioè siamo capaci, noi, è vero, di complicarci la vita. Il prossimo rapporto, Milano 2013, Fondazione Ambrosianeum, su cosa sta meditando? E stiamo proprio ancora vedendo la tematica del welfare e vediamo se riusciamo a trovare qualche cosa assolutamente di nuovo per non solo approfondire, ma la nostra idea è quella di fotografare la realtà, però metterci dentro anche quelle linee di indirizzo che sono quelle che qualificano una fondazione anche culturale. Anche perché Milano come Milano ha una grande responsabilità di essere un po' il traino non solo economico ma anche un po' morale, anche un po' di idee, anche culturale del paese. Assolutamente sì. Grazie a Marco Garzogno, grazie presidente della Fondazione Ambrosianeum, che è stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Matteo Comes in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.